Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Finanziare la cultura per ridurre la spesa sanitaria. Detta così è una semplificazione, naturalmente, ma tutto sommato è una buona sintesi di quello che è un punto di vista venuto fuori nel corso di una lectio magistralis in occasione degli Stati Generali della Cultura nel nostro paese. E sappiamo benissimo che i luoghi, i fulcri della cultura in ogni paese sono proprio le città. A tenere lezione il professor Pierluigi Sacco, docente di economia della cultura allo IULM di Milano, della Facoltà di Arti, Mercati e Patrimoni della Cultura nello stesso istituto. Chiara Albicocco lo ha incontrato per chiedergli di spiegarci questo rapporto tra cultura e salute pubblica. Sentiamo. In realtà ci sono studi che ormai vengono condotti da anni, che quindi cominciano a dare risultati piuttosto stabili e affidabili, che dimostrano che il benessere percepito di una persona dipende dal suo livello di partecipazione culturale molto più che da variabili che istintivamente penseremmo siano più importanti, come per esempio il reddito, come per esempio l'età, come per esempio il genere, come per esempio il posto in cui si vive. In realtà l'unica cosa che ha un impatto più forte della partecipazione culturale sul benessere percepito il numero di malattie croniche che una persona ha, quindi ci rendiamo conto di quanto pesante sia da questo punto l'impatto della cultura sul benessere, che quindi in un certo senso la mancata partecipazione culturale ha un effetto negativo paragonabile a quello di una malattia importante. Ad esempio, un anziano che è particolarmente attivo nella vita culturale del proprio paese, della propria città, va al cinema, va a teatro, partecipa a dei concerti, eccetera, eccetera, non si abbruttisce, una parola non simpatica da dire, ma non si abbruttisce in casa e quindi probabilmente sta meglio, anzi sicuramente sta meglio. Ci sono degli esempi buoni, soprattutto in Nord Europa, ahimè, in Italia siamo un po' messi peggio, però è praticamente dimostrato. Sì, quello che noi sappiamo è che sicuramente è molto meno depresso. La depressione, come sappiamo, è una delle malattie più importanti epidemiologicamente in questo momento e ancora di più nei prossimi anni, ma anche ha una molto minore propensione a ospedalizzarsi e a medicalizzarsi, quindi a prendere medicine. In molti casi il fatto, per esempio, di essere anziani e soli porta a una più forte propensione all'ospedalizzazione, perché in un certo senso è anche un modo di essere assistito in un contesto nel quale non ci si ritrova soli, appunto. Se pensiamo a quanto sia pesante l'impatto che il budget del welfare, soprattutto del welfare legato all'invecchiamento, ha su un'economia come quella europea, ci rendiamo conto che queste sono questioni reali. Dal punto di vista degli esempi, esistono effettivamente, soprattutto in Svezia e in Finlandia, delle tradizioni già abbastanza consolidate su questo tipo di tema. Ci sono città o regioni che sul welfare culturale hanno già costruito un progetto serio, diciamo così, di welfare intelligente. Non dispero però sul fatto che anche in Italia nei prossimi anni questo tipo di questioni vengano considerate con sempre maggiore attenzione. Speriamo. No, e tra l'altro durante la sua lezione diceva proprio dei numeri, cioè ci faceva capire che in effetti c'è un reale risparmio sul welfare, sia in Svezia ma anche negli Stati Uniti abbiamo visto un caso emblematico anche in Polonia addirittura. Parliamo in questo caso non tanto del welfare quanto dell'impatto che la partecipazione culturale ha su tutto il tema della formazione continua e dell'acquisizione di competenze delle persone. La Polonia in questi anni ha ottenuto un risultato decisamente sorprendente, in piena crisi economica, quello di portare da qui al 2015 la spesa pubblica della cultura dallo 0,16 all'1% del PIL. Qual è la ragione in questo caso? In questo caso la ragione è il legame che esiste appunto tra partecipazione culturale e società della conoscenza, formazione continua. In altre parole, si è avviata un'azione che viene dalla società civile, che ha proposto in questo caso al primo ministro direttamente di immaginare la spesa culturale come un vero e proprio modo per far partecipare più attivamente i cittadini all'economia della conoscenza, alla società della conoscenza, attraverso appunto l'esperienza culturale, dimostrando molto chiaramente quali erano gli effetti macroeconomici che questo poteva ottenere. Non soltanto la proposta è stata accolta, ma si è creata una commissione mista governativa / società civile che monitorizza l'uso della spesa, non solo quanto si spende sulla cultura, ma come e perché lo si spende, per fare in modo che effettivamente questi obiettivi di qualità sociale fossero effettivamente raggiunti. E devo dire, è un esempio davvero illuminante che in un paese come l'Italia potrebbe ispirare, io mi auguro, azioni analoghe. Ecco, infatti in un momento così particolare in cui siamo noi di crisi, ma in cui appunto vogliamo rialzarci, il consiglio è un po' questo, di seguire questa indicazione e cosa altro potremmo fare per rendere la cultura così un po' il volano della nostra economia? Noi in realtà, quando pensiamo allo sviluppo legato alla cultura, abbiamo in mente una visione abbastanza limitata, che è quella del turismo culturale. È vero. Che ruota intorno al nostro patrimonio storico-artistico. Questa cosa ovviamente ha un suo valore, ha un suo peso macroeconomico. Il punto però è che il turismo ha a che fare con il tempo libero, ha a che fare con l'intrattenimento, cioè non ha a che fare con la vita quotidiana delle persone in quanto lavoratori, in quanto cittadini. Il limite sta qui. Quello che noi oggi sappiamo è che invece i vettori macroeconomici più efficaci per creare economia intorno alla cultura hanno a che fare con la partecipazione quotidiana e hanno effetti sull'innovazione, come abbiamo già ricordato sul welfare, persino sulla sostenibilità ambientale o sulla coesione sociale. Quando andiamo a sommare gli effetti stimati di queste forme di partecipazione, ci rendiamo conto che sarebbe comunque più che giustificato un sostegno alla partecipazione culturale. Lasciatemi fare una considerazione di chiusura. Quello di riuscire a trasferire spese da un bilancio ad un altro è uno in realtà dei capitoli più complessi che abbiamo davanti. È un problema di contabilità in fondo, ma tutt'altro che banale, non solo in Italia. Se aumentate la spesa per la sicurezza stradale, per esempio, diminuiscono gli incidenti, ma la spesa e il risparmio agiscono su due bilanci diversi, Ministero delle Infrastrutture e quello della Sanità in questo caso. Due vasi che non sono comunicanti. Se pensate alle tante rigidità a cui oggi è sottoposto il bilancio di ogni Stato, alcune prive di senso come quelle che portano lo Stato a non pagare i propri debitori o come il patto di stabilità che blocca gli investimenti anche quando i comuni hanno i soldi, beh, si capisce che questo aspetto contabile è tutt'altro che banale. Insomma, oltre che di città intelligenti, quindi attente alla cultura, come abbiamo appena scoperto, abbiamo bisogno a tutti i livelli di una contabilità intelligente. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.